Siano lodati Gesù e Maria. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Vorrei cominciare da qui questa breve riflessione, perché già molto abbiamo udito, di questa notte. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo. Cosa era successo? C'era un uomo che diceva di essere un profeta, anzi più che un profeta, è stato preso, è stato catturato, è stato torturato in maniera disumana, gli è stata inflitta la sentenza di condanna a morte che veniva affibbiata ai peggiori criminali spregevoli, tanto è vero che dovettero requisire Simone di Cirene e costringerlo, perché portare la croce tutta intera, quindi voleva dire che doveva essere crocifisso con i chiodi di un condannato, voleva dire essere compromessi un po', io non c'ho niente a che fare con questo, assolutamente. Morto, di una morte orrenda, abbandonato da tutti, messo in un sepolcro e poi a un certo punto nel sepolcro non c'è più. Fine della storia. Guardate che questo è quello che è successo. E quindi? Cosa è successo? Ad uno sguardo umano c'era un tizio, ma chi lo sa chi era quello che era, che è stato giustiziato ed è morto. Hanno trovato la tomba vuota, ma siccome andava dicendo in giro come fossero inventato gli ebrei, che ci fu la maggiore di Matteo che era, che doveva risorgere, che sono andati, hanno rotolato la pietra e hanno portato via chissà dove il cadavere, e fine del discorso. Domanda, come disse Gesù ai suoi discepoli, cosa pensa la gente di questa notte e del giorno di Pasqua? Punto interrogativo. Ci pensa, ci crede veramente che quell'uomo crocifisso in quel modo, come abbiamo ripetutamente detto in questa notte, era Dio che ci ha salvato dalla rovina, come Mosè gli egiziani dal faraone, quindi che ha compiuto, ha ripristinato l'opera della creazione grazie alla redenzione, che siamo stati salvati dalla potenza di questa notte, dall'oscurità del male, dalla rovina e dal baratro sicuro, e se non avesse pagato lui il debito saremmo stati tutti quanti spacciati, e se non fosse veramente risorto nessuno di noi entrerebbe in paradiso. E quindi è veramente Dio quello che ha fatto tutto questo? Qual è il passaggio dai fatti a quello che sto dicendo? Avviene attraverso la fede. Questa liturgia di questa notte, da capire un termine così, è proprio caricata a mille, su una frequenza, la frequenza della fede. Tutto parla di fede, la benedizione del fuoco, il cielo pasquale, le candele accese, ciò che seguirà dopo è importantissimo, la rinnovazione delle nostre promesse battesimali. Tutta la nostra vita cristiana consiste semplicemente nell'essere fedeli alle promesse del nostro battesimo. Quando siamo stati battezzati, altri le hanno fatte per noi, ma quando siamo stati cresimati, noi le abbiamo confermate. Sapete che la cresima si chiama anche confermazione. Ma quanti vivono in maniera coerente questo? Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Credete veramente in Dio Padre Onnipotente? Credete in Gesù Cristo? Può uno dire sono credente ma non sono praticante? Sapete, no? L'ho raccontato tante volte, c'era Buonanima di Padre Amort, che è stato per tanti anni presidente dell'Associazione Nazionale degli Esorcisti, diceva: io non ho mai conosciuto un diavolo ateo, i diavoli non sono atei, i diavoli sono tutti credenti, anzi sotto costrizione fanno certe lezioni di catechismo, che stupende, ma non sono praticanti. non vanno a messa, o meglio, a messa ci vengono i diavoli, per disturbare quelli che stanno presenti e fargli fare un sacco di peccati pure durante la messa, fargli stare con la testa per aria, fargli vedere come stanno vestiti gli altri, non farli inginocchiare quando scende Gesù Cristo, perché i diavoli all'inferno si inginocchiano quando scende Gesù Cristo, ma alcuni fedeli ogni tanto, io guardo il nostro Signore quando sto consacrando, ma con la coda degli occhi ogni tanto vedo qualche sagoma un po' troppo alta, quindi intuisco che qualcuno non si sta ginocchiando. Io spero sempre che ci abbia qualche grave malattia alle ginocchia, perché capite, altrimenti è un problemino, no? Cioè, mi chiedo, ma se tu credi che sta scendendo Dio, colui dinanzi al quale tremano gli angeli, rimani in piedi, capite, no? Perché tutto dipende dalla fede. Allora, se noi abbiamo la fede, è un discorso questa notte, ed è un discorso la vita. Se noi la fede non ce l'abbiamo, è la fine. Se perdiamo la fede, è finito tutto, perché anche la vita cristiana non diventa altro che una serie di, come dire, di cerimonie che si fanno. Qualche giorno fa qualcuno, vi confesso, che mi diceva: ma come mai le persone, se c'è la processione, oppure la Domenica delle Palme, vi posso raccontare, alle 5:30 del pomeriggio, ma appena suona il portone della porta di casa, va a rispondere la mia collaboratrice che stava qui, dice: ma c'è una signora che vorrebbe un ramoscello di palma, dove sta? Dico: se non ci stanno più è meglio. Ma che ci fai con il ramoscello di palma? Che ci devi fare con il ramoscello di palma? Cioè, non sei andata alla messa delle palme e te devi portare a casa sto ramoscello di palma? Io vorrei tanto essere veramente un... Che c'è stato dentro la testa di una persona che pensa... Che cosa pensa? Qualche confratello, un mio sacerdote, dice: questa è la giornata dell'idolatria, perché compare una montagna di gente per prendere il ramoscello di palma. Cioè, qualcuno va alla benedizione delle palme, se via la palma, ma mica va a messa. Cioè, adesso uno non è che vuole giudicare o vuole criticare, uno fa un discorso per far capire, no? Che ci sta dentro la testa di una persona che pensa questa cosa qui? Perché te pensi che il ramoscello di palma ti porta al paradiso? No, ti porta in paradiso il contatto con il nostro Signore Gesù Cristo, se ti confessi, se ti fai la comunione. Il ramoscello di palma è un di più, certamente è un oggetto benedetto che ci portiamo a casa, no? Ecco, se perdiamo la fede è finito tutto, se conserviamo la fede tutto va bene, se la fede vacilla troviamo il modo di farla ravvivare. Per ravvivare la fede ci vuole preghiera, ascolto e pratica sempre maggiore e sempre meglio curata dei sacramenti. Santa Pasqua a tutti.